attraverso l'eliminazione dei ricercatori a tempo indeterminato, si introduce per esempio una precarietà nel mondo, nell'organizzazione del lavoro di ricerca che non è conosciuta nemmeno nell'industria privata. Basta immaginarsi che i contratti a tempo indeterminato con cui tipicamente venivano assunti i ricercatori adesso verranno sostituiti da contratti co-co-co della durata di anche 10 anni. Questo vuol dire che dal momento in cui un ricercatore si laurea al momento dell'assunzione potrebbero passare anche 20 anni contando tutte le fasi, le diverse fasi del precariato. Inoltre la riforma introduce anche per esempio cattedre finanziate dalle imprese, liberalizza la possibilità per i professori di esercitare anche al di fuori dell'università, in qualche maniera ridisegna privatizzandola tutta l'organizzazione della ricerca. Effettivamente per ora il fronte delle forze che chiedono il ritiro è abbastanza compatto, anche i sindacati CGIL, CISL e UIL finora non hanno aperto alcuna trattativa con il ministro, ma chiaramente sono i precari, gli studenti, insomma i principali soggetti che subiranno questa riforma, i più attivi che cercano di mantenere alto il fronte della protesta. Ricordiamo infatti che la riforma Moratti in qualche maniera completa e va nella stessa direzione in cui andarono le riforme dei ministri di centrosinistra e che in qualche maniera il processo di precarizzazione e di privatizzazione dell'università dura da almeno 15 anni, insomma diciamo da almeno dal 90, anno in cui proprio contro l'autonomia universitaria ci fu il grande movimento della Pantera. Diciamo all'estero i finanziamenti verso l'università sono molto più alti, come si sente dire ormai ovunque. C'è da dire che non si possono paragonare i sistemi universitari come se i modelli fossero automaticamente esportabili. In questi giorni per esempio si parla molto dell'università americana come se fosse un modello da seguire. Effettivamente negli Stati Uniti ci sono molti investimenti anche pubblici nella ricerca, ma va ricordato, come faceva anche Cacciari ieri, che molti investimenti pubblici sono dovuti all'industria militare. Inoltre se uno entra dentro un laboratorio americano si accorgerà subito che in realtà gli americani ce ne sono ben pochi e che i laboratori americani sono popolati soprattutto da indiani, pakistani, cinesi, russi, quindi in qualche maniera la ricerca scientifica americana si basa sulla formazione pubblica che i suoi scienziati ricevono all'estero. Quindi non si può pensare per esempio di importare qui il modello americano, in quanto il modello americano si basa ormai strutturalmente sull'immigrazione, sulla fuga di cervelli, anche italiani, ma soprattutto da paesi come quelli che ho citato.